24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:20 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci in diretta fino alle 9:24 mattino. 24 mattino e radio24.it se volete scriverci mail, 349-238-6666 per i vostri messaggi. E allora oggi parliamo di Italia e Libia. Abbiamo sentito nel nostro sondaggio, questo è il tema dopo gli spari al peschereccio italiano da parte di una nave militare libica. Secondo voi bisognerebbe cambiare gli accordi tra Italia e Libia? Questa è la domanda che vi poniamo su radio24.it. Andate a votare e ne parleremo poi alle 8:30. E questo è uno dei temi presenti, ben presenti anche oggi sui giornali. Giornali che come di consueto andiamo a sfogliare. Eon, luce e gas. Scopri la nostra energia su eon.it. Vi presenta In primo piano. Giovedì 16 settembre, una rapida carrellata dei titoli delle prime pagine. Il Sole 24 Ore apre sulla stretta europea sui derivati. La Banca del Giappone dopo 6 anni interviene per frenare lo yen. Questo è il titolo di apertura sul progetto di Bruxelles, soprattutto per accentrare i controlli sui derivati e le vendite allo scoperto, al grido di basta Far West finanziario. E poi il tema del nostro sondaggio di ieri è deflagrato la vicenda Rom-Francia sui giornali, perché Corriere della Sera, Berlusconi e Sarkozy contro l'Unione Europea. Repubblica, Berlusconi con Sarkozy contro l'Unione Europea. La Stampa, Berlusconi-Sarko, sfida all'Unione Europea. Il tema è questo, proprio dei Rom. C'è chi, come Giornale Libero, vedremo, apre ancora su Fini, la questione della casa Monte Carlo. Il Fatto Quotidiano, cancelliamoli con le firme, la battaglia contro i simboli leghisti nella scuola pubblica di Adro. Mentre la bandiera strappata, c'è un tricolore strappato in prima pagina dell'Unità, siamo stranieri in patria, piegati da Gheddafi e dal Carroccio. Il Manifesto invece mette, e proprio da qui insomma la vicenda, Rom, figli di Petain. C'è da dire che figli di Petain, sono Berlusconi e Sarkozy a braccetto. Questo è il titolo di apertura. L'espulsione, certo, si gioca molto su Petain, ma come dire, l'assonanza, il suono figli di Petain induce anche a qualche equivoco. L'espulsione dei Rom dalla Francia diventa un caso internazionale, scrive il Manifesto. Ospita anche un intervento di Thomas Sommerberg, che è il responsabile dei diritti umani del Consiglio d'Europa, e che dice non perseguitiamo i Rom. Perché tutti i titoli hanno Berlusconi con Sarkozy? Perché ieri Berlusconi ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese Le Figaro dicendo in pratica che appoggia la linea di Sarkozy. L'Europa non ha ancora capito, ha detto Berlusconi, che quello dei Rom non è un problema unicamente francese, italiano, greco o spagnolo. Sarkozy invece ne è pienamente cosciente. Sarkozy che ieri durante un pranzo dal suo partito è sbottato letteralmente contro Viviane Reding, la commissaria europea alla giustizia, che è stata molto dura, che se li accolga nel Lussemburgo, avrebbe detto Sarkozy riguardo ai Rom, perché Viviane Reding è vicepresidente della Commissione europea ed è appunto cittadina del Granducato. Leonardo Martinelli lo ricorda a pagina 13 del Sole 24 Ore. Certo, una caduta di stile, perché uno può dire rispondere in tutti i modi possibili, dire stiamo facendo le cose correttamente, ma che se li prenda il Lussemburgo certamente non è una reazione da capo di Stato. Io prima però di andare ai temi come la Libia, come la politica dopo la pubblicità del traffico, vi devo segnalare questo, perché è incredibile, io l'ho letto 3 volte gli articoli, non ci volevo credere. Lo pubblica il Giornale a pagina 7 e il Fatto Quotidiano a pagina 9. Sono spaccati di un'Italia vera. Il concorso, il Giornale titola così: la Sicilia assume, basta saper spostare un foglio. Il Fatto invece titola così: sai leccare un francobollo? Sei assunto. È il bando per stabilizzare 4.912 precari della regione Sicilia a posti di portiere, dipendente di categoria A, operai, autisti, commessi. Sentite quali compiti deve passare chi si candida. Testuali: fare una fotocopia, ove possibile fronte retro. la non meno difficoltosa prova di apporre la data su un documento utilizzando il datario. Predisporre una busta, mettere un indirizzo e il timbro del mittente. E il giornale dice: stremati, se riusciranno a passare questi ostacoli i candidati, dovranno fare l'ultimo decisivo scoglio, spedire un fax. Anzi, nel bando c'è scritto fare un fax. Ma soprattutto poi la prova decisiva. Devono sapere i candidati fare la movimentazione documenti. E uno dice: che vuol dire? Per esempio, aprire un faldone, estrarre un fascicolo, richiudere il faldone mediante appositi nastri. Ora, chi riuscirà a superare queste prove temibili, queste prove difficilissime, queste prove quasi insormontabili, riuscirà a diventare un dipendente della Regione Sicilia. 4.900 i candidati, chissà, allenatevi, fare una fotocopia, ove possibile, fronte retro, se ce la fate. In primo piano. Alle 7:33 minuti, eccoci a continuare la lettura dei giornali. 100 spari sul peschereccio, ripartiamo da qui, pagina 5 della Stampa. Il peschereccio è quello italiano che è stato preso a colpi di mitragliatrice da una motovedetta libica, creando una situazione sicuramente di tensione tra Italia e Libia. Questo è il tema del nostro sondaggio. Vi chiediamo se dopo questa situazione che si è venuta a creare, questo incidente o questo attacco, come lo volete definire, si debbano rivedere gli accordi tra Italia e Libia. Per la verità, Guido Ruotolo, sempre sulla Stampa, pagina 4, racconta quello che è successo ieri a Roma, dove c'era il party, il ricevimento all'ambasciata libica per commemorare l'anniversario della rivoluzione. Quanto è lontana la Padania da Roma, scrive Guido Ruotolo. I venti di guerra della Lega contro la Libia si fermano nelle valli del nord. Neppure un venticello sfiora la capitale, anche se qui di quell'accordo da rivedere se ne parla. Nulla. Anche le polemiche sulla necessità di riscrivere le regole di ingaggio lasciano il tempo che trovano. Perché, racconta Guido Ruotolo, ma anche sul Corriere della Sera, ieri gran presenza, gran vernissage all'ambasciata libica. Roberto Maroni, ovviamente ricevuto dall'ambasciatore Afeg Gaddour, si appartano, parlano, toni conviviali. Poi c'è Massimo D'Alema come presidente del Copasir, il senatore Latorre del PD, imprenditori con l'amministratore delegato di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini, il presidente dell'antimafia Beppe Pisano, il generale Mario Mori che spiegava: è come se una pattuglia di carabinieri a un posto di blocco a Pescara aprisse il fuoco uccidendo un inerme automobilista. Con chi ce la prendiamo? Con il governo o con quel coglio del carabiniere? Anche se all'interno del governo, dopo che ieri il ministro Galan aveva detto è stato inaccettabile, per Repubblica anche il ministro alla difesa La Russa comincia ad ombrare qualche sospetto. Per esempio, il ministro La Russa: un errore quegli spari? Non credo, dice in questo virgolettato nell'articolo di Alberto Custodero. È evidente che non si può sparare sui clandestini e su nessuno. Se ci fosse scappato il morto, sarebbe stata crisi diplomatica. A proposito di morto, questi 100 proiettili contati dalla Stampa, ovviamente stanno indagando i carabinieri che ieri hanno fatto tutti i rilievi sul peschereccio che è stato sequestrato, questi 100 proiettili, molti erano proprio ad altezza uomo all'interno di un peschereccio, quindi potevano davvero uccidere, ma vedremo cosa succederà nell'inchiesta. Parla anche l'armatore Giuseppe Asaro a Repubblica, l'armatore del peschereccio Ariete, allibito dalle parole di Maroni: c'è licenza forse di uccidere i clandestini, anche se fossero stati clandestini, perché sparare? Quale legge internazionale lo prevede? Questo è il tema, le polemiche, ne parleremo alle 8:30, voi votate il sondaggio, la domanda è questa: secondo voi, dopo gli spari contro il peschereccio, l'Italia dovrebbe cambiare i rapporti con la Libia, oppure insomma bisogna derubricare tutto a un incidente che è sfortunato, che è successo, fortunatamente non ha provocato vittime e bisogna chiuderla lì? Veniamo così alla politica italiana. Oggi Nucara, il segretario del Partito Repubblicano, colui che è stato incaricato o si è mosso per cercare i 20 del gruppo di responsabilità, qualcuno l'ha definita la legione straniera, qualcuno ha definito gli ascari di Berlusconi, che dovrebbero garantire i voti in Parlamento in caso di assenza di voti da parte dei finiani. Ecco, Nucara fa un'intervista a Libero consolandosi: almeno a 70 anni sono diventato famoso, mi stanno chiamando tutti, anche chi prima non mi filava. Chi l'avrebbe detto che sarei diventato famoso a 70 anni suonati? C'è anche chi mi riconosce per strada, una sensazione nuova, non sono abituato, ma sono contento, perché magari grazie a me qualche ragazzo di 20 anni scoprirà l'esistenza del Partito Repubblicano. Questa intervista di Gianluca Roselli a pagina 8 di Libero è un po' l'uomo del momento, Francesco Nucara, che poi litiga anche un po' via mezzo stampa con Giorgio La Malfa, che invece è il presidente del partito e che aveva detto: ma tratta a nome di chi? A nome del nostro partito? A nome del partito, del glorioso Partito Repubblicano? Oggi Nucara non la manda a dire alla Malfa: sono unito a lui politicamente da 40 anni e se le raccontassi le ripicche, gli sgarbi reciproci, staremmo qui fino a domattina. Ma se non vota la fiducia la Malfa al governo, per statuto potrebbe essere anche messo fuori dal partito. Naturalmente mi auguro che non si arrivi a questo punto. Insomma, sono in tre in Parlamento, perché ora si aggiunge anche Luciana Sbarbati, come detto, i repubblicani, e il Corriere titolava due giorni fa: sono in tre e litigano. Ma certo, il tema dominante della politica da una parte è questo chiacchiericcio sul tentativo di reclutare appunto dei voti. Messa dalla parte del centro-sinistra è una compravendita squallida, da parte invece del centrodestra è un tentativo di ottenere persone che possano garantire la solidità del governo, perché poi in democrazia contano i voti. Voti responsabili, la carta UDC, questa pagina 9 del Corriere della Sera. Possibile il sì di 6-7 dissidenti centristi, e ancora l'UDC che guarda, secondo il Corriere della Sera, Berlusconi. Tra l'altro l'UDC infatti ieri ha già fatto sapere che espellerà Michele Pisacane dell'UDC, che ha condiviso la linea dei dissidenti siciliani. Ieri a Repubblica ha ammesso la disponibilità a votare per il governo. E poi ecco queste persone che stanno diventando famose, per esempio PD, ex simbolo del PD Massimo Calearo, ora è deputato dell'API, cioè di Rutelli, e che dice: è vero che la danno come in grado di appoggiare Berlusconi? Chiede Fabrizio Roncone sul Corriere. Diciamo che io non sono tra quei 20 che si vendono, risponde Calearo, o avrebbero intenzione di vendersi. Al contrario, io mi muovo in autonomia fisica e di pensiero. Detto questo, penso al bene degli italiani. Perciò, se nel programma di Berlusconi ci saranno attenzioni, decisioni in favore delle imprese e dell'economia, di certo non farò mai mancare il mio voto al Premier. Ecco qui Massimo Calearo che si espone all'ultima domanda di Roncone: è possibile che Berlusconi gli abbia prospettato la possibilità di diventare ministro per lo sviluppo economico in cambio di questo? Proposte ufficiali non ne ho avute, risponde Calearo. Ma come dire, se son rose, fioriranno. Mentre invece chi sdegnosamente respinge i tentativi, che ammette ci sono stati, di corteggiamento è Antonio Razzi. Chi è Antonio Razzi? E ripeto, dovete abituarvi a questi nomi che in Parlamento magari sono poco conosciuti, ma che in questi momenti stanno emergendo come voti importanti. Antonio Razzi è stato eletto in Svizzera, dunque all'estero, nelle liste dell'Italia dei Valori, il partito più anti-berlusconiano che ci sia. Eppure dice: mi tentano, ma io resisto, nonostante il mutuo. È una spettacolare intervista, sempre quelle botte risposta che fa Antonello Caporale su Repubblica, pagina 7. Passa con noi, così mi hanno detto. E lei? Gli ho detto che non è possibile, è un patto con Di Pietro. E mi dicevano di fottermene del patto, di mandarla a quel paese. Diciamo che più di due mi hanno contattato, ma non mi conoscono. Io sono un lupo marsicano, sono abruzzese, emigrato a 17 anni in Svizzera. Mi rivedo quando era alla dogana, mi fecero spogliare per valutare se avessi malattie. L'ha chiamata chi? Berlusconi? No, solo una volta gli ho parlato, ma mi sembra in gamba, simpatico. Lei milita però in un partito fieramente anti-berlusconiano. Ma quelli parlano di collegi blindati. Io comunque ho già deciso. Certo, ho un mutuo da pagare. Ho preso casa a Pescara. Hai il mutuo, fa sapere Caporale. Sì, ma non fa niente. Ho la Previdencassa Svizzera. Insomma, lei resta dove sta, io ho una sola faccia. Come potrei farmi vedere in giro domani? Giusto, è che diamine, risponde l'onorevole Razzi. Una curiosità, l'han chiamata solo dal PDL? No, anche quelli del centrosinistra. Onorevole Razzi, è stato davvero cortese. Chiamami Antonio. Finisce così l'intervista. Io sono un abruzzese semplice. Chiamami Antonio. Dalla parte del centro-sinistra invece si sa ci sono i mal di pancia di Veltroni che continuano a essere analizzati oggi dai giornali. Oggi sia Repubblica che il Corriere Maria Teresa Meli fa sapere che Walter Veltroni è proprio pronto a fare sul serio chissà una scissione, chissà una tensione, un documento, una volontà di uscire dal Partito Democratico, meglio di creare una sua corrente. Staremo a vedere. Intanto, a proposito di Partito Democratico, Massimo D'Alema fa un'intervista sulla Stampa, pagina 9, Federico Geremicca lo intervista, una lunga, intensa pagina di intervista. Il punto centrale è questo: deve essere il segretario a sfidare il centrodestra. Su Vendola alle primarie dice... A parte che fa un po' lo gnorri, ma perché Vendola, Veltroni, Chiampiarino partecipano tutti alle primarie? Come se non lo sapesse, no? Fa quello che non si interessa molto di Partito Democratico, infatti dice: io lavoro ormai in Europa, Bruxelles, Russia, New York. Beh, è davvero poco da crederci a questa cosa. Vendola di sicuro si candida. Credo che prima occorra vedere se c'è intesa sulle basi politiche e programmatiche necessarie a stringere un'alleanza non scontata. Vendola fa parte di quella sinistra che ha costituito il problema maggiore per Prodi fin dal primo governo. Ha fatto i conti con questo? Sa che gli italiani non vogliono che quanto accaduto si ripeta? Questa è la premessa. E se l'intesa è raggiunta, che si candidi, dice D'Alema, anche se trovo singolare questa agitazione autopromozionale che utilizza il PD, verso il quale non ha mai avuto parole di apprezzamento. Mentre la candidatura degli altri, dice, è sbagliata. Addirittura, sì, un aspetto costitutivo del PD è aver guardato ai grandi partiti riformisti europei, e i grandi partiti europei candidano il loro leader alla guida del governo. Dunque, D'Alema dice, deve essere il segretario, dunque deve essere Bersani in questo caso, a sfidare il centrodestra. In primo piano. Infrastrutture al nord, al sud, tagli alla sanità. Questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore, che per il secondo giorno consecutivo dà un ampio spazio a che cosa? Al progetto sul federalismo, perché l'attuazione del federalismo accelera. Oggi i ministri di economia e semplificazione, vale a dire Tremonti e Calderoli, illustreranno ai rappresentanti di regioni e enti locali i due decreti in arrivo. Uno riscrive le regole del fisco regionale e provinciale, l'altro individua le regioni con le migliori performance. Sapete, il federalismo è così, si usa quelle performance come benchmark per fissare i costi standard sanitari. Allora Giorgio Santilli fa un'interessante prospettiva di quei quattro scenari che potrebbero crearsi in Italia col federalismo, dal federalismo virtuoso che porta Italia alla spesa, al modello bavarese, quello che aumenterebbe il divario con il nord che riesce ad attenersi agli standard virtuosi, mentre al sud no, e quindi si creerebbe un graduale distacco delle regioni. O la terza possibilità, cioè quella negativa, il continuismo clientelare o lo svuotamento della riforma fino al fallimento come scenario più negativo dal punto di vista delle riforme federaliste, il fallimento ovviamente anche l'acuirsi di egoismi territoriali, problemi di gestione di bilanci e una secessione dura del nord scontento. Quattro scenari possibili, ovviamente sullo sfondo la riforma federalista, interessante oggi pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, a scoprire anche che succederà quando si vedranno i ministri con i rappresentanti locali. A proposito di federalismo, a proposito di concorsi, a proposito di Lega, segnalo, dopo che ha lanciato Parentopoli in Piemonte, il Riformista oggi titola Carrocciopoli. Perché concorso a Brescia, racconta Tommaso Labate in prima pagina, si iscrissero in 700, un concorso alla provincia di Brescia, si presentarono in 240, andarono avanti in 38, alla fine 5 assunti. Chi sono? la figliola del candidato leghista alle regionali, la nipote dell'assessore provinciale leghista, la moglie del vice sindaco leghista del capoluogo e ben due beneficiarie di contratto ad personam presso lo stesso assessorato provinciale retto dal medesimo esponente politico, leghista, ovviamente. Concorso a Brescia, altro scandalo leghista dopo la denunciata parentopoli in regione Piemonte. Che strano, tutte leghiste le vincitrici del concorso. È questa l'apertura del riformista Tommaso Labate con questo attacco alla Lega. Gli attacchi invece a Fini continuano su Libero e Il Giornale. Oggi Il Giornale trasforma la prima pagina, pagina 3, in una sorta di documento preso dal catasto, perché Monte Carlo, la mappa che smentisce i finiani. Viene pubblicata in prima pagina la piantina del famigerato appartamento di Boulevard Princess Charlotte 14 a Monte Carlo. Eccola la casa, ereditata da Enne, venduta a due società offshore di San Lucia e oggi abitata da Giancarlo Tugliani, il cognato del presidente della Camera Fini. Un appartamento da 70 metri quadri più 5,40 metri quadri di balcone alloggia. C'è la piantina, se la volete vedere, ed ecco la dimostrazione di come il giornale dimostra di come la cucina Scavolini comprata lunga 3,85 metri entrerebbe perfettamente nel vano cucina di questo appartamento. Ed ecco qui la parete 3,85 la cucina, la 3,85 la parete cucina, la cucina Scavolini è 3,80 metri, dunque ci starebbe perfettamente. Ecco la mappa che smentisce i finiani. Ho due segnalazioni, se ce la faccio, anzi no, forse una, quella della scuola di Adro, perché le polemiche continuano dopo i simboli. Qualcuno dice della Lega, il sindaco di Adro dice no, sono simboli non leghisti. Fa un'intervista al Corriere della Sera Francesco Cevasco, la Lega non c'entra. Certo, l'esordio è questo: mio figlio dove va? Alle scuole private. Come alle scuole private? Proprio di fronte alla scuola pubblica. Mi sono trovato bene, è la mia stessa scuola. Ma per favore, è una scelta personale, mi costano un poco, sia ben chiaro, se no mi scoppia un altro caos. Poi dice i simboli non sono quelli della Lega, sono i simboli del sole delle Alpi, è un simbolo di Adro, è un simbolo di gioia, è un simbolo di allegria, mi rendo conto dei sospetti, ma è tutto ingiusto, sono disgustato dalle strumentalizzazioni. E poi accidenti, eccoci qua, in una trasmissione di Radio 24. La zanzara del mio amico Beppe Cruciani si è aggiunto un giudizio morale. Diciamo pure, risponde il sindaco, che mi hanno accusato di dire cazzate e di essere una testa di... Dov'è il dialogo? Lì querelo. La querela a Radio 24, annunciata sul Corriere della Sera dal sindaco Lancini di Adro. Infine... molestate in ufficio, 8 su 10 tacciono. Sul Corriere della Sera e sull'Unità, pagina 36, dati shock a mio modo di vedere. Secondo l'Istat, 1.224.000 donne sono oggetto di violenza o pressione, in una gamma di umiliazioni che dalla telefonata può raggiungere lo stupro. L'80% delle vittime lavoratrici però non solo non denuncia, ma addirittura neppure si confida, tenendo tutto per sé. Beh, davvero è un dato shock, lo trovate Corriere pagina 23, Unità pagina 36, abusi in ufficio per milioni di persone, per le donne ovviamente peggio. Pensate, l'8,5% di donne che lavorano sono colpite da molestie e ricatti a sfondo sessuale, ma l'80% di loro non denunciano, non dicono nulla e tengono tutto per sé. Davvero dati inquietanti da questo punto di vista. 24 mattino. L'intervista. Quando sono le 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Protagonista della nostra intervista di oggi è il rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi. Professor Dionigi, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno. Senta, io la pongo così. I vertici dell'Ateneo da voi hanno detto, in sostanza, ci sono ricercatori che vogliono bloccare la didattica, protestare con la riforma, fatecelo sapere che noi vi sostituiamo con docenti a contratto. È brutale, ma insomma la vedono come un ricatto. Sì, è detta male, ma non solo nei modi, perché non è una questione di stile, di modi, che è una questione di sostanza. Le dico subito, io da alcuni mesi, noi siamo in attesa appunto per fare il piano del quadro didattico per garantire l'anno accademico, dovere di un rettore dell'istituzione per i ragazzi che pagano le tasse, per le famiglie, di approntare il nuovo anno accademico, e quindi noi avevamo disponibilità condizionate dei ricercatori, condizionati alla legge Gelmini, condizionati alle loro sacrosante rivendicazioni, ai loro diritti. Sì. Ad un certo punto, ecco, siccome l'anno accademico non inizia più il 5 novembre, ma inizia a fine settembre addirittura, a cavallo tra settembre e ottobre, addirittura alcune facoltà a metà settembre, allora, non avendo ancora un quadro definito di disponibilità, il Senato accademico, tutti i presidi unanimi, correttore, abbiamo deciso di mandare una missiva ai ricercatori dicendo: guardate, chiediamo la disponibilità, sì, o non disponibilità per avere un quadro, in caso contrario dovremo procedere per soluzioni alternative per la didattica. Però messa soluzioni così, alternative per la didattica. Questo qui è di vedere. Soluzioni alternative per la didattica, io le posso indicare 20 casi. Sì. Soluzioni alternative dal primo semestre. Questo sì, però, rettore, perché è deflagrata così? Cioè, senti, il segretario della CISL Epifani ha detto. Ecco, no, le spieghiamo. Ecco, mi faccia dire, però, per gli ascoltatori: in Fiat si sciopera e ti chiedono i danni, a Bologna sostituiscono gli scioperanti. Ecco, è difficile, mi scusi, dare una. Non me ne abbia, dare una risposta giusta a una domanda sbagliata, non a lei, al segretario Epifani, persona autorevolissima che io peraltro stimo. E qui ha sbagliato stanza, non è uno sciopero. Se lei interpella tutti i ricercatori, dico, non è uno sciopero, perché lo sciopero nel pubblico impiego A viene preannunciato, B c'è la trattenuta dello stipendio, D è per un lavoro. Questo qui è una non disponibilità per un lavoro volontario gratuito, per una funzione additiva, quindi siamo qui, nessuno conculca i diritti di uno che sciopera. Mi dispiace dover l'ha precisato. Però ci sono, lei ha detto: io sono combattuto tra due diritti. Andiamo alla sostanza. I diritti dei ricercatori ci andiamo sono. Andiamo alla sostanza. Qui c'è un'anomalia di sistema per cui per anni le università, e la mia anche ovviamente, avendo 83.000 studenti e 3.200 docenti, di cui più di 1.000 sono ricercatori, ovviamente una parte della didattica, non so dire la percentuale, ma credo tra il 30 e il 40, non lo so, poi dipende da facoltà e facoltà, viene fatta. È basata sull'impegno dei ricercatori, che è un impegno non dovuto, perché loro dovrebbero farselo. Certo, questo si può discutere. Ecco, allora primo, ci sono, diciamo, anche diritti acquisiti sul campo, persone eccellenti, guardi che di questi ricercatori sono persone degne della cattedra più dei loro ordinari. Ecco, ci sono, soprattutto siamo scandalosamente da lustri arretrati su questi concorsi, persone ormai che hanno i capelli grigi alla fronte, che diventa sempre più spaziosa, sono ancora in quel ruolo. Quindi la loro protesta, chiaramente dalla parte più valida di loro, ma io guardo alla parte alta, è anche legittima, lei dice. Ma non è legittima, è sacrosanto. Però questo, vale più questo diritto o quello dello studente, ecco, a studiare? Si inoltra in un terreno giuridico e morale dove ad un certo punto uno, finché può, li porta avanti tutti e due. Io spero, così affidandomi alla responsabilità di tutti, vedendo se, perché una soluzione, come ci sono altri, vogliamo come Ateneo posticipare in maniera clamorosa l'inizio dell'anno accademico, però poi c'è bisogno di una data certa per dimostrare voi siete la risorsa primaria, il nucleo vitale. Se dovessimo ricorrere ad altri, ci sarebbe A, due problemi: uno, una dequalificazione; B, poi dove vado a trovare le risorse. Un'ultima questa favola che il rettore ha trovato dei milioni per l'esterno, è una favola, è una bugia ed è una disinformazione vergognosa. Cioè, lei non vuole fare, vi sostituisco come un allenatore di calcio, tu non sei indisponibile, chiamo un altro. No, qui non è la dama, qui non siamo alla caserma, qui voglio dire, il problema è questo, si sa, nel caso che confermi le loro non disponibilità, vediamo in quali insegnamenti, quali facoltà, qualcosa si dovrà fare, può far scivolare dal primo al secondo semestre l'insegnamento, si possono, vuol dire, alcuni insegnamenti non fondamentali farli tacere con sacrifiche un po' per gli studenti, ma per ridurre però al minimo il danno e garantire servizi essenziali, come quando ci sono degli scioperi, degli aerei, dei treni, lei ha, o negli ospedali, lei ha dei diritti, dei diritti fondamentali. Ecco, io mi attesto su questo livello, perché cosa? Per non conculcare il diritto dello studente, perché bisogna, se a me viene una famiglia, uno studente, io mi sono iscritto a quel corso, ti richiedo indietro le tasse, io cosa rispondo? Cosa fa? Cosa risponderebbe? Cerco di depotenziare al massimo questa cosa, di farlo stretto necessario, ricorrendo ad altri colleghi, se si assumono l'onere, tutto, quello del ricorso all'esterno è l'estrema razza a cui non voglio neppure pensare, che lo stato attuale teorica non la posso escludere per principio, però, perché vedremo. Non so se trovo le competenze, non ho i soldi. Va bene, rettore, io la ringrazio, andremo a vedere come va a finire, grazie Ivano Dionigi. Spero bene, perché la responsabilità della comunità universitaria è superiore a quanto vuol farci credere certa opinione pubblica e, ahimè, certa informazione. Grazie rettore per essere stato con noi, Ivano Dionigi, rettore dell'Università di Bologna. 24 mattino. Quando sono le 8:35 minuti, allora eccoci qui per il nostro sondaggio 800 se volete, scusate, 800 24 00 24, mi sono perso pezzi di telefono. Se volete intervenire in diretta, parliamo di Italia e Libia. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Dopo gli spari contro il peschereccio italiano, bisognerebbe rivedere qualcosa negli accordi, nei rapporti con la Libia? Questa è la nostra domanda. Devo dire che state votando, il 78% per ora di voi dice di sì nelle votazioni su radio24.it, continuate a votare lì. Gli sms al 349-238-6666. Voglio salutare il senatore Marco Perduca, buongiorno, del Partito Democratico, ma in realtà Radicali. Perduchistan è il suo blog, è così? Perduchistan? Sì, è così. Perché Perduchistan? Mi tolga questa curiosità. Perché lo stan è il suffisso che si aggiunge alla terra di un popolo. Io non sono un nazionalista, ma mi trovavo in Afghanistan quando decisi di aprirlo, e quindi diciamo che quello è un po' il mio territorio. Senta un po', lei è uno dei più critici, sempre con il dito puntato nella politica, nei confronti della politica italiana, per dire, anche nei confronti di Gheddafi. Perché, insomma, non è un incidente, punto e basta, quello che è successo? No, intanto diciamo che noi, parlo a nome di tutte le delegazioni radicali e alla Camera e al Senato, ci siamo opposti alla ratifica di questo trattato fin dall'inizio, perché riteniamo che abbia delle pericolose clausole che vanno contro il diritto internazionale. In particolare, non tutelano la possibilità per chi ne volesse far richiesta di il riconoscimento dello status di rifugiato da una parte, e dall'altra addirittura va contro trattati minori, ma che pur sempre esistono, quali sono quelli del salvataggio in mare, e credo che l'esempio di 2 o 3 giorni fa vada proprio in questa direzione. Senta, intanto ci ha raggiunto, lo saluto, il senatore Alfredo Mantica, buongiorno, del Popolo della Libertà, sottosegretario agli affari esteri e grande anche esperto di quelle zone geografiche di Africa. Senta, senatore Mantica, oggi i giornali fanno notare, Guido Ruotolo sulla Stampa, ma anche sul Corriere della Sera, ieri c'è stato il ricevimento all'ambasciata libica, dove si festeggiava l'anniversario della rivoluzione. Mi fanno notare tutti, dove altro che eventi di guerra o di tensioni, insomma, gran ricevimento, grandi abbracci, tutto finito così. Come dire, c'è qualcuno che dice, ma come, sparano nello scafo, bisognerà vedere come, e che facciamo? Non reagiamo, non convochiamo l'ambasciatore, non so, non facciamo quei passi diplomatici che sono da fare? Guardi, io ieri sera non c'ero, quindi accetto le cronache di quelli che erano presenti. Ognuno su queste cose credo abbia una propria sensibilità personale. Per quanto riguarda il clima, Beh, io voglio dire, il clima dei rapporti italiani con la Libia sono ormai da molto tempo, da più di 10 anni, avviati a quella che è la normalità. L'incidente dell'altro giorno è certamente grave, credo che nessuno possa accettare che si usino le armi anche in caso di pattugliamenti per controllare, supponiamo, le proprie acque territoriali, però voglio dire, riportiamo a quello che è un incidente tra due paesi. In questo momento mi pare che il presidente Sarkozy abbia qualche problema con Lussemburgo. Non credo che questo porti alla rottura di rapporti antichi e tradizionali. Ma questo, le parole, insomma, Sarkozy sappiamo, ha detto si prendono in Lussemburgo. No, ma voglio dire, fatto come esempio. Certo, certo, no, ma per spiegare agli ascoltatori, cioè ci sono tensioni a volte diplomatiche, però qui ci sono delle raffiche di mitra, cioè nel senso, nella malaugurata ipotesi fosse successa una persona, anche un morto. Noi dobbiamo, voglio dire, per cercare anche di inquadrare l'episodio, comunque gravissimo, però in ogni caso vorrei che fosse registrato alle scuse ufficiali dell'ambasciatore libico, lo stesso che ha organizzato la riunione di ieri sera, che sono state praticamente immediate, le scuse del comandante e le scuse anche del ministro degli esteri libico. C'è una commissione di indagine in corso da parte della Libia, a cui possono partecipare gli esperti italiani, c'è una ricostruzione nostra, e abbiamo già dichiarato che andremo fino in fondo per capire quello che è avvenuto, se è per caso un atto, come dire, scomposto di razionalità da parte del comandante, sì, che non ha interpretato gli ordini, o se invece, come si può anche temere, qualcosa di più grave. In questo caso mi pare ovvio che gli accordi che abbiamo, almeno magari nelle loro modalità, verranno rivisti e aggiornati alla luce degli eventi. Resta comunque, e questo però il governo italiano non l'ha mai, come dire, dimenticato, che un atto di questo genere, soprattutto visto anche il peschereccio con raffiche di mitra ad altezza d'uomo, non può essere mai accettato in nessun caso. Da questo punto di vista, secondo lei è stata un po' infelice l'uscita del ministro Maroni a dire forse li ha scambiati per una nave con clandestini? Cioè, siamo tutti d'accordo che non bisogna mai sparare a chiunque ci fosse? Io non l'avrei detto, penso che sia uno dei tanti incidenti che può capitare a ciascuno di noi quando sottoposti a torture da parte dei giornalisti, cioè nel senso, può scappare una frase. Io credo che Maroni avrà poi rettificato, come vedo la serata. Qui non si tratta né di emigranti, né di fare differenze tra chi pesca o chi è in crociera a prendere il sole. Le armi non si usano in pattugliamenti verso navi civili. Questo credo sia un principio assoluto. Peraltro, voglio dire, l'uso delle armi, ci sono casi anche in Italia, voglio dire, in cui si può commettere, a parte chi ha le armi, un errore. Io mi auguro che sia un errore umano, che chi ha sbagliato a interpretare il proprio ruolo venga punito dall'autorità libica. E comunque ribadisco, se ci sono invece, dopo le indagini, la verifica di quello che è avvenuto, necessità di modificare gli accordi del 2007 firmati da Mato, e non lo dico per scaricare sul governo Prodi, certo. Ecco, dico che è un problema che ha interessato tutti i governi italiani dal 2000 fino ad oggi. Vorrei ricordare, solo per dire quanto è complessa la storia libica, che l'allora primo ministro Moro nel 1974 fece il primo accordo con la Libia, purtroppo per lui un momento difficilissimo, cioè 2 anni dopo l'espulsione degli italiani da Libia. Cioè questo rapporto con la Libia è molto tormentato, da 40 anni ha interessato il governo italiano, perché il rapporto con la Libia è di interesse nazionale. No, ma... Questo sicuramente. Io, volendo tornare dal senatore Perduca, molti ci scrivono, io non capisco davvero questo punto di vista di chi ci scrive, ma prima dobbiamo verificare, non so, il peschereccio aveva il suo sistema satellitare per essere individuato, ci scrive per esempio un ascoltatore, oppure aveva sconfinato in acque territoriali libiche. Questo si vedrà. Allora, a parte che la seconda risposta è no, certo che era identificato, è stato identificato, gli hanno detto si fermi, anche in italiano, perché c'erano a bordo anche dei nostri finanzieri, fermati, fermati, fermati. Il comandante ha ammesso, io non volevo fermarmi perché altrimenti venivo, andavo in prigione in Libia, questo era certo e non era una cosa simpatica. Detto questo, uno se ne va, che fai? Ti sparo una raffica di mitra? No, insomma, questa mi sembra una risposta abbastanza chiara. Però per Duca le chiedo, senta, si metta un attimo nei panni di un uomo di Stato, un uomo che, non so, in questo momento lei è alla Farnesina, no? Credo che non le capiterà mai, insomma, per il suo modo di parlare, sempre. Non poniamo limiti alla provvidenza. Alla saggezza degli italiani. Cioè, non è che si può sempre fare per qualsiasi. Allora, che dovrebbe fare appunto il Lussemburgo adesso, dopo la battuta di Sarkozy, prendetevi Roma in Lussemburgo? Che fare? Rompere le. Intanto il Lussemburgo e la Francia agiscono all'interno di un quadro normativo chiaro e riconosciuto da tutti, che sono, che so, nel caso anche la Convenzione Europea dei Diritti Umani. La Libia invece non riconosce nessuno dei trattati internazionali in materia di diritti umani. Ma il problema ancora prima di questo è che l'Italia, col passare degli anni, in questi suoi comportamenti nei confronti di Tripoli, ha sdoganato uno dei peggiori regimi che esistano nel continente africano, se vogliamo rimanere nei paraggi. Un regime la cui festa è stata appunto celebrata ieri, che da quando esiste ha sistematicamente cancellato qualsiasi tipo di opposizione interna, comprandosi invece piano piano un sostegno internazionale, concedendo favori relativamente alla possibilità di estrarre gas e petrolio. Quindi, non so, il ministro degli esteri Perduca ritirerebbe l'ambasciatore dalla Libia? No, cosa il fa? Il ministro degli esteri Perduca prende il trattato, lo straccia e lo riscrive secondo la Convenzione la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e impone alla controparte, chiaramente negoziando il tutto come l'Italia continua a dire che dovrebbe essere fatto, ma non sta facendo nessun passo in quella direzione, con i partner europei, chiedendo alla Libia innanzitutto di fare a casa propria tutte le modifiche legislative necessarie per entrare a far parte a pieno titolo, non soltanto con l'elezione ai più alti incarichi delle Nazioni Unite, ma come dal punto di vista della Costituzione e delle leggi nazionali della comunità internazionale. Gli dice: bene, noi vogliamo con voi entrare in un patto molto complicato di controllo dell'immigrazione clandestina, uno, ratificate la convenzione per i rifugiati. Sì, insomma, rifare un po' in base ristracciare quell'accordo e rifarlo secondo basi più democratiche, rispetto dei diritti che in Libia le dice non ci sono. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? L'80% degli ascoltatori per ora votando dice sì, bisogna rivedere gli accordi con la Libia. Io ricordo 100 colpi di mitragliatrice, così certifica la stampa. Oggi i carabinieri stanno facendo tutti gli indizi. 100 spari e il comandante che dice ci hanno inseguito per 5 ore. C'è da dire che in questo caso invece il Ministero degli Interni, anche nella relazione dei finanzieri che erano a bordo della motovedetta libica, danno una versione ben diversa, cioè non ci fu alcun inseguimento. E soprattutto per 5 ore tantomeno. Ma sentiamo un paio di ascoltatori. Arduino da Catanzaro, buongiorno. Pronto? Sì, dica. Mi sente, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì, intanto volevo dirle questo: io credo che 100 colpi di mitra non vengono sparati a caso, perché il caso vuole che possa partire un colpo di mitra erroneamente in una situazione di controllo territoriale delle acque. In ogni caso non è la prima volta che la Libia aggredisce i nostri pescherecci, che il più delle volte navigano in acque internazionali dove c'è un diritto particolare proprio di acque internazionali. Lì è una vicenda un po' contrastata, perché Gheddafi dice il golfo della Sirte, il controllo delle acque è nostro, va oltre il limite delle 12 miglia nautiche, ma questa è una vicenda, insomma, diplomatica anche qui, di rapporti. Ma in ogni caso, la Libia le considera quando si inferisce contro un peschereccio che ha delle reti, non ha delle armi a bordo per potersi difendere, questa è l'aggressione, non è una difesa contro qualcuno che sta attaccando. Ah no, ma su questo siamo d'accordo, questo è intaccare i diritti umani della persona che sta lavorando. È non è da capire, Arduino, e questo faccio la domanda a lei, se come ieri il generale Mori, che era al ricevimento, ha detto, secondo la stampa, ma se succede che a un posto di blocco un carabiniere sbaglia e spara e uccide una persona, ce la prendiamo con uno Stato o con quello stupido, ha usato un brutto termine ancora di più, del carabiniere che ha sbagliato, cioè l'errore umano magari di quel comandante libico che ha sbagliato evidentemente aprendo il fuoco, oppure per questo dobbiamo mettere in ballo le relazioni con Tripoli? Non bisogna mettere in ballo le relazioni con Tripoli fino a quando Tripoli va a fare un'indagine dettagliata su come sono andate le cose. In ogni caso, se mettono delle persone incapaci a curare quelle che sono i diritti dello Stato libico, quello è un problema loro, ma noi non possiamo pagare attraverso 100 colpi di mitra solo perché loro mettono delle persone incompetenti. Va bene, riguardassero i loro addestramenti. Grazie, Arduino, insomma. Voglio andare a Milano da Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, a mio avviso l'episodio mette in evidenza un punto debole fondamentale sugli accordi, cioè la questione del Golfo della Sirti. Quindi a mio avviso il nostro governo dovrebbe decretare la revisione dell'accordo, eventualmente l'annullamento, per manifestarne in modo pratico il ritiro degli ufficiali che pattugliano, e quindi poi coinvolgere anche un'entità superiore, visto che la questione riguarda il definire la sovranità su delle acque che attualmente sono definite acque internazionali. Sì. Dopodiché, come misura, diciamo, non populista, non dichiarata, incomincerei comunque a inviare, diciamo, la nostra marina, quantomeno iniziare a pattugliare il nostro confine. Beh, insomma, inviare la marina. Perché tanto è nello stile di Gheddafi. Ah, capisce, cioè inviare la marina è un segnale, no? Che uno interpreta come dire, che fate, ci schierate qua la marina, che ci fa qua la marina? Non so, senatore Mantica, è una previsione, è una un'ipotesi, cioè mettere la marina lì in campo a dire guarda che siamo qua. Insomma. Escluderei. Io volevo ricordare anche agli ascoltatori e a noi stessi che vicende analoghe, ce lo siamo dimenticati, avvennero con la Tunisia, avvennero con l'Algeria, avvennero con la Croazia, gli incidenti non ci sono più, ma come si è superata questa vicenda? Con accordi specifici che riguardano la pesca, a cui hanno partecipato anche gli armatori, cioè gli imprenditori di questa attività, e si è trovata per questa specifica attività in rapporti bilaterali con i singoli paesi, accordi, molti dei quali passano ad esempio attraverso la formazione di società di pesca joint venture, cioè voglio dire a cui partecipano operatori delle due parti. Quindi una delle cose che occorre secondo me assolutamente fare per evitare questo tipo di incidenti è un accordo sulla pesca con la Libia, sì, a cui partecipano anche gli operatori. A proposito di pesca, sottosegretario, l'armatore di questo Ariete ha detto: sono allibito dalle parole anche del ministro degli esteri Frattini, che ha detto il nostro comandante pescava illegalmente. Evidentemente, ha detto l'armatore, il ministro degli esteri preferisce difendere Gheddafi invece che dei marittimi italiani mitragliati senza alcun motivo. Io voglio dire, non rispondo a questa, che intendo una provocazione, perché vorrei ricordare all'amatore che spesso a me capita in paesi che non sono la Libia, ma che fanno parte del continente africano, di assistere armatori che devono riscattare le loro navi, qualche volta pagano anche $1 milione di multa, perché qualche volta succede pesca che armatori infrangano le regole dei singoli paesi. Ecco perché io penso che solo attraverso una regolamentazione delle attività di pesca tra Italia e Libia, che non saranno trattative facili, anche perché voglio dire, certo c'è un problema di acque territoriali 12 miglia, 72 miglia, c'è un problema di pescosità di quest'area, quindi di un interesse specifico industriale da parte nostra e da parte della Libia. Non dimentichiamo che i giapponesi pagano il tonno rosso molto più di quanto noi possiamo immaginare. Voglio dire, c'è anche un aspetto per evitare queste tensioni che va certamente affrontato. Allora, Valerio da Genova, buongiorno. Valerio ci ha abbandonato. Nicola da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo far notare, no, come la Lega aizzi i suoi elettori nei confronti dei diversi, degli extracomunitari, e poi il suo ministro, il ministro Maroni, difenda a spada tratta un attacco deliberato nei confronti italiani. Non ha difeso a spada tratta, cioè ha detto hanno fatto bene a spararci addosso. Certo, la gravità sta che è stata fatta anche con una nave donata dal nostro Stato, dal nostro governo a loro. Quella frase del ministro Maroni, sicuramente anche qua il sottosegretario Mantica ci dice forse è stata una frase infelice, dice torturato dai giornalisti, ma non è che Maroni abbia difeso si immagina che Maroni dica hanno fatto bene a spararci addosso? Non ha detto hanno fatto bene, però certamente, voglio dire, bisogna prendere una posizione, perché qui li abbiamo pagato 200 ragazze per farsi spiegare il Corano. Adesso lui ce l'ha pagate lui, fortunatamente. Con il 7% nell'Unicredito vedrete che in Lega succederà qualche problema, specialmente in Fondazione Cari Verona. Certo, grazie. La Fondazione Cari Verona, che è socio di Unicredito, è già il sindaco Tosi, ha detto, per esempio, ecco, Marco Perduca, oggi l'ho letta ministro degli esteri, così, ministro degli esteri, certo non è che il ministro degli esteri ha competenze anche su questo, ma vigila anche su questo, c'è una commissione apposita. I libici lei via da Unicredit perché i soldi dei libici puzzano? No, non è questione dei soldi dei libici puzzano, ma sono arrivati qua perché noi abbiamo fatto di tutto perché arrivassero. Ora, indipendentemente dal capitolo banche e investimenti nelle banche, che magari potremmo utilizzare per un'altra trasmissione, dove bisognerebbe sempre fare grande chiarezza e far sì che gli italiani sapessero come in realtà vanno le cose, io credo che si debba fare un ragionamento di tipo diverso, anche relativamente alla pesca o eventuali joint venture commerciali private. Non credo che ci si possa fidare per alcuna cosa del governo libico. Ma cosa si fa? Cioè quello è, cioè cosa facciamo? Non adottiamo certo la tecnica Bush, voglio dire, non andiamo mica a deporlo. Cosa facciamo? Quello è, dice, non ci si può fidare, ma il nostro vicino è quello. E quindi? Il nostro vicino è quello, ma se noi lo portiamo su un piedistallo in giro per il mondo, tra l'altro ricoprendoci di ridicolo per i modi con cui lo accogliamo tutte le volte che viene in qua, io credo che questo non soltanto quello è, ma quello rimarrà per sempre, perché noi comunque gli diamo gli strumenti economici e finanziari per rafforzarsi. Il nostro trattato famoso parla in minima parte dell'immigrazione, e la massima parte è una sorta di intercessione governativa, perché poi rientrino in Italia ben 50 miliardi di dollari di commesse e tutti stanno rientrando, visto e considerato che il centro della visita scorsa era proprio questo, cioè distribuire i quattrini. Allora, nessuno dice che non si debbano andare a fare affari, ma nessuno dice che si debbano per forza andare a cercare gli affari, magari neanche utili, perché poi si potrebbe porre il dubbio con persone di questo tipo, con persone con peggiore dei partner possibili. Va bene, grazie il senatore Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri, il senatore Marco Perduca, per essere stati con noi, con Valeria Coffaro in redazione, Peter Bescapè in regia. Diamo la linea a tutti amichevolmente a Oscar Giannino, 24 Mattino e Radio 24.it. A domani.